ad alta voce, leggere il Decamerone. Maestro Simone, a instanza di Bruno e di Buffalmacco e di Nello, fa credere a Calandrino che egli è pregno, il quale per medicine dà a predetti capponi e denari e guarisce senza partorire. Poiché Elissa ebbe la sua novella finita, essendo da tutti rendute grazie a Dio che la giovane monaca aveva con lieta uscita tratta de morsi delle invidiose compagne, la reina a Filostrato comandò che seguitasse, il quale, senza più comandamento aspettare, incominciò. Bellissime donne, lo scostumato giudice marchigiano, di cui ieri vi novellai, mi trasse di bocca una novella di Calandrino, la quale io era per dirvi. E perciò, che ciò che di lui si ragiona non può altro che moltiplicar la festa, benché di lui e dei suoi compagni assai ragionato si sia, ancor pur quella che ieri aveva in animo vi dirò. Mostrato è di sopra assai chiaro chi Calandrin fosse e gli altri dei quali in questa novella ragionar debbo, e perciò senza più dirne dico che egli avvenne che una zia di Calandrin si morì e lasciogli 200 lire di piccioli contanti, per la qualcosa Calandrino cominciò a dire che egli voleva comperare un podere, e con quanti senzali aveva in Firenze, come se da spendere avesse avuti 10.000 fiorin d'oro, teneva mercato, il qual sempre si guastava quando al prezzo del poder domandato si perveniva. Bruno e Buffalmacco, che queste cose sapevano, gli avean più volte detto che egli farebbe il meglio a goderglisi con loro insieme che andar comperando terra, come se egli avesse avuto a far pallottole. Ma nonché a questo essi non l'aveano mai potuto conducere che egli loro una volta desse mangiare. Perché, un dì dolendosene, essendo a ciò sopravvenuto un lor compagno, che aveva nome Nello, di pintore, di liberar tutti e tre di dover trovar modo da ugnersi il grifo alle spese di Calandrino. E senza troppo indugio darvi, avendo tra sé ordinato quello che a fare avessero, la seguente mattina, appostato, quando Calandrino di casa uscisse, non essendo egli guari andato, gli si fece incontro Nello e disse: «Buon dì, Calandrino!» Calandrino gli rispose che Dio gli desse il buon dì e il buono anno. Appresso questo, Nello, rattenutosi un poco, lo incominciò a guardar nel viso, a cui Calandrin disse: «Che guati tu?» E Nello disse a lui: «Hai ti tu sentita stanotte cosa niuna? Tu non mi par d'esso.» Calandrino, incontanente, cominciò a dubitare e disse: «Oimè, come? Che ti pare egli che io abbia?» «Beh, io non dico perciò, ma tu mi pari tutto cambiato, sia forse altro. E lasciollo andare. Calandrino, tutto sospettoso, non sentendosi perciò cosa del mondo, andò avanti, ma buffa al macco che guari non era lontano. Vedendo il partito d'Annello, gli si fece incontro e, salutatolo, il domandò se egli si sentisse niente. Calandrino rispose: io non so, pur testè mi diceva Nello che io gli pareva tutto cambiato. Potrebbe egli essere che io avessi nulla? Sì, potresti tu aver cavelle, non che nulla. Tu par mezzo morto. A Calandrino pareva già aver la febbre. E ecco Bruno sopravvenire. E prima che altro dicesse, disse: Calandrino, che viso è quello? E par che tu sia morto. Che ti senti tu? Calandrino, udendo ciascun di costoro così dire, per certissimo ebbe sé come desimo d'esser malato, e tutto sgomentato gli domandò: che fo? A me pare che tu te ne torni a casa e vaditene in sul letto e facciti ben coprire, e che tu mandi il segnal tuo al maestro Simone, che è così nostra cosa come tu sai. Egli ti dirà incontanente ciò che tu avrai a fare, e noi ne verremo teco, e se bisognerà far cosa niuna, noi la faremo. E con loro, aggiunto Sinello, con Calandrino se ne tornarono a casa sua. Egli, entratosene tutto affaticato nella camera, disse alla moglie: vieni e coprimi bene, che io mi sento un gran male. Essendo adunque a giacer posto, il suo segnale per una fanticella mandò al maestro Simone, il quale allora a bottega stava in Mercato Vecchio alla insegna del Mellone. E Bruno disse a compagni: voi vi rimarrete qui con lui, e io voglio andare a sapere che il medico dirà, e se bisogno sarà, ammenarloci. Calandrino allora disse: beh sì, compagno mio, vavvi, e sappimi ridire come il fatto sta, che io mi sento non so che dentro. Bruno, andatosi al maestro Simone, vi fu prima che la fanticella che il segno portava, e ebbe informato maestro Simone del fatto. Perché, venuta la fanticella e il maestro veduto il segno, disse alla fanticella: vattene e di a Calandrino che egli si tenga ben caldo, e io verrò a lui incontanente e dirogli ciò che egli ha e ciò che egli avrà a fare. La fanticella così rapportò, ne stette guari che il medico e Brun vennero, e postolisi il medico a sedere al lato, gli incominciò a toccare il polso, e dopo alquanto, essendo ivi presente la moglie, disse: vedi, Calandrino, a parlarti come a amico, tu non hai altro male se non che tu sei pregno. Come Calandrino udì questo, dolorosamente cominciò a gridare e a dire: «Oimè, Tessa, questo m'hai fatto tu, che non vogli stare altro che di sopra. Io ti diceva bene». La donna, che assai onesta persona era, udendo così dire al marito, tutta di vergogna arrossò e, bassata la fronte, senza risponder parola, s'uscì della camera. Calandrino, continuando il suo ramarichio, diceva: «Oimè, Cristo me, come farò io? Come partorirò io questo figliuolo? Onde uscirà egli? Ben veggo che io son morto per la rabbia di questa mia moglie, che tanto la faccia iddio trista quanto io voglio esser lieto. Ma così fossi io sano come io non sono, che io mi leverei e darei le tante busse che io la romperei tutta. Avvegna che egli mi stia molto bene, che io non la doveva mai lasciar salir di sopra. Ma per certo, se io scampo di questa, ella se ne potrà ben prima morir di voglia». Bruno e Buffalmacco e Nello avevano sì gran voglia di ridere che scoppiavano udendo le parole di Calandrino, ma pur se ne tenevano. Ma il maestro Scimmione rideva sì squaccheratamente che tutti i denti gli si sarebbero potuti trarre. Ma pure, a lungo andare, raccomandandosi Calandrino al medico e pregandolo che in questo gli dovesse dar consiglio e aiuto, gli disse il maestro: «Calandrino, io non voglio che tu ti sgomenti, che lodato sia Iddio, noi ci siamo sì tosto accorti del fatto che con poca fatica, in pochi dì, ti delibererò, ma conviensi un poco spendere». «Oimè, maestro mio, sì, per l'amor di Dio. Io ho qui da 200 lire di che io volea comperare un podere. Se tutti bisognano, tutti li togliete, purché io non abbia a partorire, che io non so come io mi facessi, che io odo fare alle femmine un sì gran rumore quando son per partorire, con tutto che le abbiano buon cotal grande donde farlo, che io credo, se io avessi quel dolore, che io mi morrei prima che io partorissi». «Non aver pensiero. Io ti farò fare una certa bevanda stillata, molto buona e molto piacevole a bere, che in 3 mattine risolverà ogni cosa e rimarrai più sano che pesce. Ma farai che tu sii poscia savio e più non incappi in queste sciocchezze. Ora ci bisogna per quell'acqua 3 paia di buon caponi e grossi, e per altre cose che bisognano darai a un di costoro 5 lire di piccioli che le comperi, e farami ogni cosa recare alla bottega, e io, al nome di Dio, domattina ti manderò di quel beveraggio stillato, e comincerane a bere un buon bicchier grande per volta». «Maestro mio, ciò sia dei voi». «E date 5 lire a Bruno e denari per 3 paia di capponi, il pregò che in suo servigio in queste cose durasse fatica. Il medico, partitosi, gli fece fare un poco di chiarea e mandogliele. Bruno, comperati capponi e altre cose necessarie al godere, insieme col medico e co compagni suoi, se gli mangiò. Calandrino bevette 3 mattine della chiarea e il medico venne da lui e i suoi compagni e, toccatogli il polso, gli disse: Calandrino, tu sei guarito senza fallo e però sicuramente oggi mai va a fare ogni tuo fatto, né per questo star più in casa. Calandrino, lieto, levatosi, s'andò a fare i fatti suoi, lodando molto, ovunque con persona a parlar s'avveniva, la bella cura che di lui il maestro Simone aveva fatta, d'averlo fatto in 3 dì, senza alcuna pena, spregnare. E Bruno e Buffalmacco e Nello rimaser contenti d'aver con ingegni saputa schernire l'avarizia di Calandrino. Quantunque monna Tessa, avvedendosene, molto col marito ne brontolasse. Glossario. Maestro Simone a instanzia di Bruno e di Buffalmacco e di... A instanzia. La locuzione vuol dire a richiesta. Fiorin d'oro teneva mercato. Il qual teneva mercato. L'espressione equivale a mercanteggiava, trattava. Avesse avuto a far pallottole, ma non... A far pallottole. La locuzione allude a un terreno buono solo per fare pallottole da balestra, che dunque non vale nulla. Modo da ugnersi il grifo alle spese di Calandrino. Ugnersi il grifo. La locuzione significa letteralmente ungersi il muso. Grifo è definizione spregiativa del viso, che si lega di solito al muso del maiale. L'espressione vuol dire dunque fare una mangiata, ingozzarsi. Senti, tu sentita stanotte cosa niuna? Tu non mi par d'esso. Tu non mi par d'esso. La frase significa tu non mi sembri lo stesso, sei diverso dal solito. Costoro 5 lire di piccioli che le comperi. Piccioli. I piccioli equivalevano ai denari. Ogni lira valeva 240 piccioli. Fece fare un poco di chiarea e mandogliele. Chiarea. Il termine indica una bevanda, medicinale secondo alcune interpretazioni, una sorta di vino speziato, ma non si ha nozione precisa di cosa fosse. Senza alcuna pena, spregnare. Spregnare. Il verbo significa sgravidare, sgravarsi della pregnezza, vale a dire abortire. Fra quanti hanno letto con grande attenzione nel corso dei secoli il Decameron, c'è chi l'ha postillato, trasmettendoci così una traccia spesso significativa del loro modo di accostarsi a questo capolavoro. E non si tratta solo di letterati. Basti citare il caso di un illustre cardinale lombardo, quel Federigo Borromeo che tutti conosciamo grazie anche al Manzoni. Il cardinal Federigo era molto interessato alle questioni linguistiche e preparava accuratamente le sue prediche consultando i classici, alla ricerca dell'arcaismo raro e prezioso. In un suo quadernetto di osservazioni sopra le novelle del Boccaccio, registra più di 400 espressioni, segnando a fianco di ognuna i modi corrispondenti più correnti e usuali. Fra le altre sue note c'è anche il verbo avere col valore di esserci, che troviamo in questa novella con quanti sensali aveva in Firenze, cioè con quanti sensali c'erano in Firenze. E se il Borromeo traduce con sono un analogo via che incontra nella sua lettura decameroniana, siamo autorizzati a ipotizzare che questa forma fosse fuori corso nella Lombardia seicentesca. Ma le sue postille ci interessano anche per altro motivo, perché ci confermano il valore di modello linguistico che il Decameron ha lungamente avuto. Scrive uno dei suoi primi biografi che il cardinale si dimostrò vago delle novelle del Boccaccio, succiando a guisa d'ape i fiori delle più eleganti forme del dire e fuggendo d'altra parte tutti quei luoghi che contenevano in sé alcuna narrazione o motto lascivo. Ad alta voce, leggere il Decamerone, regia di Diego Marras, a cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.